Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera iniziamo parlando di un libro dedicato alla dottrina sociale della Chiesa e alla teoria economica. L'autore è Luigi Pasinetti, ma ne parliamo con la professoressa Simona Beretta, che ha curato questo libro, ha raccolto i due testi di Luigi Pasinetti, uno di qualche anno fa, del 1992, di 20 anni fa, e un altro molto più recente, in cui si elabora appunto un discorso sulle relazioni tra teoria economica e dottrina sociale, come dice giustamente il titolo. Ecco, iniziamo. Simona Beretta, chi è Luigi Pasinetti per chi non lo conosce? Il professor Luigi Pasinetti è un laureato dell'Università Cattolica, se mi posso permettere una nota biografica che dice molto del personaggio. Si è laureato al corso serale, evidentemente una persona brillante, ha continuato la sua carriera come studioso di economia e per la maggior parte della sua vita accademica è stato ricercatore e docente all'Università di Cambridge in Inghilterra, dove è stato uno dei discepoli, diciamo, della scuola che attraverso Keynes e Sraffa è arrivata fino ai giorni nostri, questa, ecco, scuola keynesiana, virgolette. Dicendo un laureato della Cattolica, ce ne sono tanti, Luigi Pasinetti potrebbe essere considerato anche uno dei maggiori economisti italiani. Io direi proprio di sì, devo dire che studiando economia sui manuali internazionali, i nomi italiani che si vedono sui manuali che studiano gli studiosi di altri paesi, i nomi degli italiani sono pochi, Pasinetti è certamente uno di questi. Più conosciuto sicuramente a Cambridge in Gran Bretagna e nel novero degli economisti internazionali che non in Italia. E allora sì, questo libro che parla di un argomento diciamo particolare, il fatto che la teoria economica e la dottrina sociale della Chiesa possono in qualche modo andare a braccetto. In quale prospettiva, Simona Beretta? Provo a raccontare come Pasinetti ha vissuto questo rapporto. L'ha vissuto come una persona intera che si poneva delle domande che riguardavano le cose vere, valide, desiderabili, e quindi non ha vissuto la dottrina sociale della Chiesa come un dopo, un alato, ma l'ha vissuta come una dimensione normale del suo essere studioso cattolico. Quindi ecco, uno studioso cattolico che avvicinandosi e mettendo a confronto le due teorie, diciamo la teoria della Chiesa e la teoria dell'economia, ha trovato che l'una poteva aiutare l'altra. Sì, ha trovato che alcune indicazioni, diciamo così, della dottrina sociale della Chiesa non erano ingiustificate ingerenze moralistiche nei confronti della teoria economica, ma si indirizzavano a mettere a fuoco delle questioni che la stessa teoria economica aveva bisogno di mettere a fuoco in quel modo, cioè con un'attenzione ai grandi valori, ai valori della difesa della persona, ai valori della difesa del lavoro inteso in maniera intera, completa, ecco. Si può dire in pratica che i valori morali possono aiutare la teoria economica a fare dei passi in avanti, a capire un po' meglio come funziona la stessa economia. E in questo, diciamo, c'è un approccio molto keynesiano, ma keynesiano reale, non keynesiano da spesa pubblica. Ah, no, non c'entra niente il keynesiano, diciamo così, un po' a buon mercato dell'incremento della spesa pubblica. Qui c'è proprio l'analisi della domanda effettiva a partire da un modello economico che guarda con grande interesse e con grande rispetto alla dimensione strutturale, alla dimensione proprio dei processi tecnologico-produttivi. Quello che Pasinetti fa è ridisegnare uno schema di comprensione del sistema economico nel suo complesso a partire dalla teoria della produzione, dal quale risulta che le variabili chiave, diciamo così, che hanno rilevanza etica, in particolare quelle che riguardano la distribuzione del reddito fra salari e profitti, hanno un grado di libertà che deve essere adoperato a partire dalla concezione di uomo e di società che si ha. Quindi i valori non è che vengono aggiunti alla teoria economica di Pasinetti, ma sono assolutamente dentro il completamento del modello. Ecco, quindi in questo senso si può dire appunto che questo approccio alla teoria economica consolida la stessa teoria economica e offre delle prospettive diverse. Possiamo spingersi fino a dire per affrontare in maniera un po' più costruttiva di come si è fatto finora anche la crisi che stiamo vivendo ormai da 5 anni? Io sono convinta di sì. Dunque, intanto, diciamo, lo schema teorico di Pasinetti mette grande enfasi sulle trasformazioni tecnologiche e non c'è dubbio che una dimensione con la quale non abbiamo ancora fatto tutti i conti è il cambiamento strutturale che deriva dai processi di trasformazione reale, dall'emergere di nuove capacità produttive in nuovi paesi, dalla trasformazione di certe tecnologie da molto hard a abbastanza soft e cose di questo genere. Quindi certo il modello di Pasinetti permette di capire il sistema economico a partire dalle trasformazioni tecnologico-ingegneristiche. Ecco, questo fascino della trasformazione tecnologica naturalmente è qualcosa che fa parte della eredità degli economisti classici, di cui, con tutto rispetto, anche Pasinetti fa parte. Quindi ecco, un approccio anche alle grandi tecnologie, rimettendo però comunque al centro poi una persona con tutti i suoi valori, con tutte le sue caratteristiche e anche con tutta la sua, diciamo così, irrazionalità. Certo senso, sì. Grazie a Simona Beretta. Prego. Per averci illustrato il libro che ha curato Simona Beretta, docente di economia all'Università Cattolica, il libro di Luigi Pasinetti, Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica, edito da Vita e Pensiero. Sono 126 pagine per 10 euro. Grazie. Grazie. E adesso passiamo dalla dottrina sociale della Chiesa e la teoria economica a una economia vissuta. Ne parliamo con il professor Andrea Boitani, professore di economia politica all'Università Cattolica. Buonasera, professor Boitani. Buonasera. Professor Boitani ha scritto un libro, anzi un libro intervista, I trasporti del nostro scontento, un'intervista edita dal Mulino nella collana della Voce Info, di cui Boitani è collaboratore, un'intervista a cura di Sandra Bellini. I trasporti del nostro scontento, Boitani è un autorevole esperto del sistema dei trasporti e inizia proprio da questa osservazione, il fatto che i trasporti non accontentano nessuno. Ma la prima domanda allora è questa: hanno ragione i cittadini, gli utenti ad essere scontenti del sistema dei trasporti in Italia? Beh, un po' sì. Il sistema dei trasporti crea una serie di problemi ai cittadini in termini di tempo perso, in termini di disagi, in termini di costi ovviamente, diretti e indiretti. E tra quelli indiretti naturalmente vanno messi i costi ambientali e anche i costi della congestione. Questo perché in Italia si è fatta una politica di trasporti incentrata molto sul trasporto privato e stradale e meno sul trasporto pubblico e ferroviario. Ma sembra che in Italia, diciamo, la politica dei trasporti abbia seguito due indirizzi contraddittori. Da un lato una sorta di laissez-faire per cui il trasporto privato, in particolare quello automobilistico, è stato lasciato crescere in maniera disordinata. Dall'altro si è avuto la tendenza a sussidiare in maniera alle volte scriteriata il trasporto pubblico. Quindi un trasporto pubblico sussidiato ma ugualmente inefficiente. Possiamo dire che c'è un dualismo, un trialismo, un quadrialismo, non so come chiamarlo, del trasporto pubblico. C'è un trasporto pubblico che funziona, per esempio l'alta velocità adesso funziona, c'è anche concorrenza, e c'è un trasporto pubblico che non funziona. Certo, è proprio così. Cioè, il problema sembrerebbe che laddove si riesce ad avere un sistema di trasporto efficiente e dove si riesce ad avere anche un po' di concorrenza, si riesce anche ad avere una quota di sussidi pubblici più limitata. Va però detto, per quanto riguarda l'alta velocità, che lì i sussidi non sono ovviamente presenti sui servizi, ma di soldi pubblici per la costruzione dell'infrastruttura ne sono stati spesi moltissimi. Ecco, però è un'infrastruttura che comunque ha permesso lo sviluppo, almeno iniziale, di una concorrenza. Questo è certamente positivo. Questo è certamente positivo, ma io credo che sia possibile lo sviluppo di una concorrenza anche al di fuori di quelle infrastrutture dell'alta velocità, che pure hanno contribuito a cambiare il modo in cui gli italiani pensano allo spazio e al tempo dei loro movimenti, e quindi è una cosa, diciamo, che ha avuto un'incidenza sui costumi del paese molto significativa. Ma credo che la concorrenza possa estendersi al di là della rete ad alta velocità. Ecco, però richiederebbe una concorrenza anche delle tariffe diverse. In fondo in Italia per dei servizi scarsi paghiamo delle tariffe più basse che negli altri paesi, per esempio sui servizi ferroviari le tariffe italiane sono molto più basse. Per i servizi ferroviari di alta velocità ormai, diciamo, siamo abbastanza allineati alle tariffe francesi, per esempio, e non lontani da quelle tedesche. è sui servizi regionali e interregionali, che sono appunto sussidiati con risorse pubbliche, che le tariffe sono effettivamente molto più basse. E queste tariffe molto più basse hanno fatto sì che, in un certo senso, chi fornisce il servizio si senta in diritto di offrire servizi di qualità molto, molto più bassi. Ecco, un'ultima domanda: sarebbe possibile introdurre la concorrenza anche sui trasporti pubblici locali, su cui sembra difficile mettere in concorrenza due linee di autobus gestite da due imprese diverse in una grande città come Milano o Roma? Sono perfettamente d'accordo, questo è molto difficile, ma è possibile introdurre altre forme di concorrenza, quella che gli economisti chiamano la concorrenza per il mercato, ovvero mettere a gara periodicamente l'affidamento di questi servizi. Se le gare sono fatte per bacini di servizi non troppo ampi e sono relativamente frequenti, i risultati possono essere molto molto buoni dal punto di vista della riduzione dei costi e anche dal punto di vista del miglioramento della qualità dei servizi. Le esperienze in questo senso condotte all'estero sono positive e naturalmente è un processo che va attentamente controllato e regolato, ma può dare risultati che a prima vista sono inaspettati. Un processo che comunque deve ancora iniziare. Un processo che dal punto di vista legislativo sarebbe dovuto iniziare oltre 10 anni fa, per la precisione 15 nel 1997, ma che in effetti è ancora agli albori. Grazie, grazie professor Andrea Boitani. Ovviamente ci sarebbero tante altre cose da dire, da discutere, da riflettere sul tema dei trasporti. Tutto quello che volete sapere lo potete trovare comunque nel libro I trasporti del nostro scontento del professor Andrea Boitani, edito da Il Mulino. Ci sono 124 pagine per 10 euro in questa rubrica. Abbiamo iniziato parlando del libro di Luigi Pasinetti, Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica, edito da Vita e Pensiero, 126 pagine per 10 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.